9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon San Lorenzo, e oggi la decisione che abbiamo assunto è quella di farvi riflettere su la messa a reddito. Uso apposta questa espressione, che è corretta ma è intesa come provocatoria: la messa a reddito del vastissimo, ingentissimo, uno dei più ingenti al mondo, patrimonio culturale, e cioè la somma dei beni architettonici, dei beni custoditi nei nostri musei, dei beni artistici del nostro paese, che è un patrimonio dell'umanità, oltre che nostro. Ripeto, è ingentissimo, c'è chi dice il 40, quasi il 50% di quello al mondo. 50% è sicuramente una stima molto elevata, ma una cosa è sicura: questo patrimonio, la nostra storia, è intessuta fittamente nei centri storici, che sono vincolati infatti non a caso di tutte le città italiane, racconta millenni di grandissimo contributo che il meglio delle nostre menti, dei nostri progenitori, ha dato allo sviluppo dell'espressione dell'arte, della scultura, dell'oreficeria, della manifattura, dell'architettura. E tutto questo, la domanda è: dobbiamo, come ovvio, custodirlo al meglio, preservarlo, non dobbiamo alterarlo, quindi i vincoli sono sacrosanti, e abbiamo da decenni una legislazione che è improntata a questo fine. Ma oltre a questo, non dobbiamo forse anche pensare incessantemente a come farlo utilizzare al meglio, a renderlo più fruibile a un numero maggiore di persone, come consentire inoltre che questo accesso e questa fruibilità produca risorse che si aggiungano a quelle magre dello Stato, che non solo sono magre ma dimagriranno, come è avvenuto negli ultimi anni, perché lo Stato deve ritirarsi dal troppo che sta facendo, e perché bisogna pensare anche quindi a renderli più conosciuti questi beni, e ove possibile, cioè ove non contrasti con la giusta tutela delle loro condizioni, anche a organizzare intorno ad essi, attraverso di essi, degli eventi per accrescerne il numero di coloro che ne fruiscono, e anche per aumentare i proventi che ne possono derivare. Io sono risolutamente per questa linea, ma è una linea che nel nostro paese non convince molti, e ho l'impressione che non convinca affatto o quasi anche la maggioranza di coloro che poi stanno negli apparati statali che si occupano della tutela dei beni. Perché su questo tema, da qualche anno a questa parte, sta andando in atto, in onda, voglio dire, tutti i giorni un confronto molto acceso. E allora abbiamo scelto di partire da una vicenda che avviene in queste settimane, che ha riguardato prima per l'ennesima volta i due bronzi di Riace, quindi due dei capolavori che verrebbe in mente a tutti noi di accomunare alla grandezza del passato del nostro paese, e poi si è spostato su due colossi preistorici nuragici che stanno in Sardegna. Ma prima di andare a questa vicenda da cui partiamo, fatemi dare qualche numero che dia spessore alla tesi di cui ci stiamo occupando. Ecco, se voi andate a compulsare l'ultimo rapporto complessivo della Corte dei Conti su quanto in Italia siamo capaci di sfruttare, e uso di nuovo un verbo provocatore, i nostri beni artistici e culturali statali per produrre risorse aggiuntive a quel magro 0,22 che quest'anno diventa 0,21% del PIL che lo Stato riserva al bilancio del Ministero dei Beni Culturali, Ambientali e Artistici e Architettonici, la cifra è questa. Ecco, nel 2005 si riferisce a questo anno, quindi un po' arretrato il rapporto complessivo della Corte dei Conti in materia. La somma che è stata incassata dal merchandising dei beni ha rappresentato, con 17 milioni e mezzo di euro, l'equivalente del 15% che il Metropolitan Museum di New York fa da solo in un intero anno, e dall'altra parte il merchandising di tutti i nostri beni culturali. Ecco, in un anno il 15% del Metropolitan Museum di New York. o, se vogliamo fare il paragone con i vincini d'Oltralpe francesi, l'intera somma che in un anno abbiamo ricavato dal merchandising in Italia è pari al 60% di quanto si incassa con la vendita del solo CD-ROM del Louvre. Quindi con il 60% del solo CD-ROM del Louvre e l'intera cifra che noi abbiamo portato a casa. Posso proseguire, è l'80% di quanto fatturano in Gran Bretagna la Tate Gallery, la Victoria Albert Museum e la Royal Academy Enterprise. Questo per darvi l'idea di quanto siamo indietro da questo punto di vista e di quanto quindi, secondo me, più che recriminazioni, che sono il refrain del dibattito in materia sulle scarse risorse dello Stato, dovremmo pensare a proposte che rendono meglio utilizzabili queste magre risorse, ma soprattutto sono volte ad affiancare a queste risorse, risorse di privati interessati a investire soldini per organizzare esattamente questi eventi, queste manifestazioni, queste mostre che consentano al nostro patrimonio straordinario di diventare ancora più patrimonio dell'umanità, di un maggior numero di persone. Qualche settimana fa, e mi avvio alla chiusura, non vi preoccupate, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha lanciato quattro proposte che a me convincono molto, anche perché vi dirò che avevo contribuito alla loro individuazione, e per questo quindi mi permetto, a conclusione di questa introduzione odierna, di richiamarvele. Sono proposte, anche queste, che vengono considerate un pochino, diciamo, non ortodosse, un pochino eretiche da parte dell'ortodossia della conservazione dei beni, che vede nel privato spessissimo una minaccia invece che un utile complemento, perché ci vede l'utilizzo a fini di profitto, questa cosa che fa inorridire ancora molti, perché il profitto rispetto al bene dello Stato viene considerato come un interesse improprio. Queste quattro proposte quali erano? Prima proposta, proprio quella per volgere al meglio questo magro 0,20% del PIL che va a questo fine in risorse pubbliche, quello di dare le risorse pubbliche non più a pioggia agli oltre 450 musei statali, se ne aggiungono moltissimi altri poi che sono musei pubblici ma degli enti locali distribuiti sul territorio. Siamo il paese a più alta diffusione di musei nel mondo, negli altri grandi paesi sono molto concentrati come per esempio in Francia, nell'Île-de-France. Noi invece abbiamo una storia tale per cui grazie al cielo ne abbiamo dovunque in Italia, ma invece di dargli a pioggia a tutti poche lire, concentrare il meccanismo di allocazione in maniera tale da darne di più a chi è più capace di affiancarvi risorse private da reperire in proprio. Si chiama matching grant questo sistema, ed è un sistema per cui il pubblico mette, quando tu metti una percentuale di quello che il pubblico ha deciso di darti, una percentuale però che è abbastanza elevata, e a quel punto è chiaro che cambia anche la figura del manager del museo o del bene culturale, perché deve essere capace di un rapporto con i soggetti economici, con le fondazioni bancarie del territorio, capace di assicurarsi risorse aggiuntive. È sbagliato? A me sembra giusto. Seconda proposta. Invece di fare lo scontro tra privati e pubblici, perché non proviamo ad affidare a privati in totale concessione sperimentale per alcuni anni alcuni musei italiani, superando i limiti molto stretti che nell'attuale ordinamento ci sono, perché si affida ai privati la possibilità di affidare, di gestire solo alcuni servizi che sono paralleli ma estranei alla missione primaria dei musei, come appunto il merchandising, e comunque a farlo bene sono pochissimi, ancora troppo pochi, dei 450 musei statali. La mia idea è che è giusto anche questo. Proviamo a fare per qualche anno un paragone, affidando un museo a un privato, totalmente la gestione. Totalmente la gestione significa anche le piante organiche, per essere chiari, e le retribuzioni. Capisco che a quel punto ci sarebbe l'insurrezione, perché si direbbe, ah come, perché? E gli altri musei allora magari diamo ai privati solo quelli che rendono di più? No, il problema è capire se poi i privati non saprebbero farli funzionare molto meglio di quanto non ha saputo fare lo Stato, e siccome i beni rimarrebbero vincolati e sarebbero sempre le sovrintendenze a dire sì o no all'utilizzo dei beni esposti e come spostarli e se spostarli, una buona proposta mi pare anche questo. Terza proposta, estendere le sponsorship delle imprese private in progetti culturali, la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico, perché attualmente, secondo le nostre leggi fiscali, la donazione di questi beni allo Stato o la donazione di cifre allo Stato da devolvere alla conservazione di questi beni è fiscalmente molto agevolata, mentre la sponsorship non lo è altrettanto, perché la sponsorship, come evidente, consente alle imprese di avere una voce in capitolo su come si organizzano poi gli eventi intorno ai beni, e questo, ripeto, è qualcosa che spesso dall'amministrazione delle sovrintendenze viene visto abbastanza male. Infine, quarta proposta: alzare dal 19% attuale al 30% l'aliquota da portare in detrazione fiscale quando le erogazioni culturali siano effettuate da persone fisiche. Ecco, queste quattro proposte, e mi avvio alla conclusione, non sono classicamente le proposte che alcuni considerano come quelle necessarie per migliorare il nostro patrimonio, perché dovrebbe essere lo Stato a stampare denaro e a pensarci. Vi faccio un esempio e vado a presentarvi il caso di oggi. Lo traggo da un articolo pubblicato proprio ieri su un quotidiano calabrese dal professor Tommaso Montanari, che insegna e è associato alla storia dell'arte moderna all'Università di Napoli Federico II. Si riferisce all'ipotesi di cui si era parlato, cioè di utilizzare i bronzi di Riace, che sono, dopo una campagna di accertamento del loro stato, del loro bronzo, per alcuni mesi non saranno visibili perché il Museo Archeologico di Reggio Calabria è soggetto a lavori di restauro. Il Museo Archeologico di Reggio Calabria, tra l'altro, non è demerito di nessuno, e per il posto in cui sta è uno, certo, dei non più visitati in Italia. E allora il direttore generale del Ministero per la valorizzazione del patrimonio culturale, il dottor Mario Resca, un manager privato di formazione messo apposta lì dal governo per dire dacci idee di come un manager privato si dedicherebbe a questo, aveva proposto che i bronzi di Riace venissero utilizzati per un'ostensione in Italia straordinaria, o anche all'estero, sempre che le sovrintendenze dessero l'ok, per rendere più attrattivi i nostri beni, per renderli più conosciuti. Ecco, la reazione è stata negativa, la reazione negativa delle sovrintendenze locali, del sindaco, di tutti i politici, perché poi si catena il nazionalismo locale, e vi leggo questo passaggio di questo professore di storia d'arte moderna all'Università di Napoli Federico II, che dice: è innegabile che una simile tournée si configurerebbe come un'operazione di marketing, ma di marketing politico. Spedire in giro per il mondo i capolavori del passato come rappresentanti porta a porta dell'Italia del presente è l'ultima trovata di una politica che, invece di provare a costruire il futuro, sa solo proporre al paese una stentata vita di rendita. Ed è inoltre un ottimo pretesto per non affrontare i veri e gravi problemi dello sviluppo turistico, perché per un governo è certo più facile impacchettare i bronzi che non affrontare il nodo della Salerno-Reggio Calabria, dell'inarrestabile colata di cemento nel mezzogiorno. Questa si chiama polemica politica, e secondo me è fatto di questo il più dei no che spesso viene dall'amministrazione dei beni. Ho fatto un'introduzione un po' polemica. Perché? Perché non domo, Mario Resca qualche giorno fa ha detto in una intervista: va bene, visto che non possiamo muovere i due giganti bronze del V secolo a.C., perché non proviamo allora a dare notorietà a due colossi nuragici che stanno in Sardegna, sono conosciuti come i giganti di Monte Parma, e sarei davvero curioso di sapere quanti di voi nascosto hanno presente di che cosa stiamo parlando, secondo me pochissimi tra voi. E ha detto Resca: perché non li mettiamo a Roma per un po' e facciamo un grande evento intorno ai giganti di Monte Parma? Non l'avesse mai detto, perché la reazione è stata uguale, totalmente uguale al no che ha raccolto sui bronzi di Riace, e su questo politici locali di tutti i colori e tutti i responsabili gli hanno detto di nuovo no. E anche il ministro Bondi a quel punto ha detto: sono d'accordo con chi protesta, i giganti di Monte Parma non si toccano. Allora, sto zitto d'ora in poi. Vi presento i nostri ospiti. Sono innanzitutto Mario Resca, il direttore generale in questione per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero dei Beni Culturali. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. Andrea Carandini, che è un grandissimo archeologo, a mia modestissima opinione, il più grande per quello che riguarda la Roma antica, e ha retrodatato con campagne di ricerca e risultati alla mano, sconfiggendo secoli di dubbi, la storia dell'aggregato protourbano di Roma, il professor Andrea Carandini, che è presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Buongiorno, professor Carandini. Buongiorno a lei. lei. Marco Carminati, strepitoso giornalista del Sole 24 Ore, autore tra gli altri del libro recente Il Davide in carrozza, che racconta proprio le avventure di viaggio delle opere d'arte dagli obelischi egizi fino al boom delle mostre. Grazie a Marco Carminati. Buona giornata a tutti. E Sergio Troncia, assessore alla cultura del comune di Cabras, provincia di Oristano. Buongiorno. Buongiorno. Comincerei da lei, assessore, perché cominciamo andando subito dalla storia dei due giganti. Perché è giusto che questi due giganti, che non so lei sia convinto siano molto conosciuti e apprezzati in Italia, non potrebbero portare, facendo una capatina a Roma con un evento straordinario, ancor più risorse, attenzione, turisti, amanti del genere, esattamente a visitarli oggi dove stanno? Perché no, assessore? Diciamo che intanto va fatta chiarezza, i giganti non sono solo due ma sono addirittura 23, quindi sono un numero abbastanza importante, addirittura in quest'ultimo periodo stanno cercando di, come dire, di ricostruirne qualcuno in più, quindi diciamo il numero è abbastanza importante e imponente. Io in occasione dell'incontro con il dottor Resca fatto a Cagliari giovedì scorso, ho detto che Cabras come amministrazione, come, scusate, come territorio si candidava per l'affidamento di queste statue. E perché si candida all'affidamento di queste statue? Perché il nostro è un territorio vocato a scoperte archeologiche, dovunque si gratti un attimino si trova qualche cosa. Noi abbiamo anche tra l'altro uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo, che è il sito archeologico di Tharros, e che nel 2009 è stato, con le sue 80.600 presenze, il secondo sito archeologico più visitato in Sardegna dopo il compendio garibaldino di Caprera. Quindi noi vogliamo dare un valore aggiunto a queste peculiarità storico, culturali, archeologiche, in modo che ci sia appunto questo valore aggiunto anche in termini di economia, avendo le nostre statue. Ma io ho detto anche, in occasione appunto di questo incontro di giovedì, che siamo anche disponibili ad una promozione e ad una valorizzazione di queste statue, anche perché no, portarle fuori per far conoscere la nostra storia, la nostra cultura, insomma tutto quello che può essere utile per il nostro territorio in termini di immagine e ovviamente come ritorno economico, perché poi le persone ovviamente verrebbero nel nostro territorio a visitare i siti archeologici e anche le nostre statue. Questo però secondo me va fatto in un secondo momento, perché queste statue oggi sono nel centro di restauro di Lipunti vicino a Sassari e queste statue purtroppo le conoscono ancora poche persone, quindi io penso che sia opportuno che prima queste statue e la loro storia vengano conosciute innanzitutto dalle popolazioni locali, quindi dalla Sardegna, da Cabras, da tutto il territorio, poi in un secondo momento per una, appunto come dicevo prima, una questione di promozione, di valorizzazione all'esterno, io potrei anche essere come dire d'accordo sul fatto che queste statue possano, non dico magari tutte 23 perché sono anche statue imponenti, sono alte intorno ai 2,50 m, 2,70 m, pesano quintali e quintali, quindi lo spostamento di queste statue non è di facile soluzione, bisogna anche studiare come spostarle perché sono molto delicate, sono statue che non sono state ricostruite totalmente, quindi insomma lì dal punto di vista tecnico qualcuno dovrebbe come dire, decidere come farle eventualmente spostare. Le faccio una domanda, perché giustamente lei non ha detto un no integrale, ha detto preferiremmo prima che venissero conosciute dal locale. Preferiremmo prima che queste statue vengano affidate. Non entro nel merito, ma se due di queste fossero state rese disponibili per l'idea lanciata da Resca e ci si fosse organizzata una kermesse a Roma, uso apposta termini oltre oltraggiosi, per così dire, per i maniaci del fatto che i beni non devono essere mai associati all'idea della orrenda kermesse. Però io lo uso apposta invece. A Roma, e ci si fosse organizzato intorno una grande attenzione capace di imporre l'attenzione di tutto il paese e anche dei turisti internazionali che passano a Roma, la domanda è: questa cosa avrebbe aggiunto o levato all'utilizzo locale e alla proiezione anche futura di tutto ciò che giustamente lei ci ha raccontato e che avete intenzione di fare? Nulla osta, però noi abbiamo purtroppo un'esperienza passata dove abbiamo visto che i nostri beni culturali, forse perché non avevamo neanche la logistica, hanno preso il volo per i musei di Londra, i musei di Parigi, lo stesso museo di Cagliari. Quando poi noi come amministrazione, come comune abbiamo realizzato il nostro museo, questi beni non ci sono stati restituiti. Ah, quindi il problema è che non vi fidate che tornino indietro. La paura è che questi beni vadano fuori e che non tornino più sul nostro territorio. Chiarissimo, io la ringrazio di questo. I timori ci sono, come vedete. Allora, a Mario Resca, il direttore generale, che ha lanciato queste idee che sono un po' lo svolgimento. Non è solo con queste idee che lui svolge il compito che gli è stato affidato, però ecco, diciamo che spesso queste idee, direttore, come vede, rimbalzano. Lei non si perde d'animo, continua a lanciarle, però mi dà l'idea che il suo sia un mestiere un pochino difficile, troppo difficile forse per essere continuato. È stata sbagliata l'idea? Lei che pensa, Resca? Beh, intanto sono abituato. Sento un rimbombo. Mi sente? Sì, la sento. Io sento un rimbombo. No, adesso meglio, perché prima non la sentivamo. Vado avanti. Ok, sono abituato, non mi scoraggio, perché quando il mio nome fu fatto furono 8.000 le firme raccolte contro l'idea di avere qualcuno che venisse al di fuori del mondo dei beni culturali per occuparsi di beni culturali. Dunque, è passato ormai un anno e mezzo, i risultati ci sono. I nostri musei, che sono circa 4.500 in Italia e sono musei sparsi in tutto il territorio, come lei ha ricordato, oggi fanno entrare qualcosa come 93 milioni di visitatori, fra quelli dello Stato, che sono 450, quelli delle istituzioni locali, compresi quelli privati. Faccio un altro numero giusto per dire: la Germania, con una frazione di quello che noi possediamo in termini di beni culturali, di bellezze architettoniche, di opere artistiche all'interno dei musei e di archeologia, attraggono oltre 125 milioni di visitatori. Quindi la risorsa dei beni culturali, devo dire, in Germania, non dimentico la Francia che è molto ancora più brava, ma gli Stati Uniti e quant'altro sono molto più bravi ad attrarre visitatori vicino alla conoscenza, alla condivisione di quella che è la storia della cultura dell'umanità. E come l'ha ricordato, l'Italia ha questo particolare privilegio di avere concentrato un numero importantissimo in termini anche di qualità oltre che di quantità. Il problema quindi era, in questi anni, cosa è avvenuto negli ultimi 30-40 anni? Poco lo Stato, non solo, lei ha ricordato, il 0,21% del PIL è stato quest'anno viene dedicato alla cultura, ma in realtà è da 40 anni che una frazione di rispetto a quello che investono gli altri paesi in Europa, che competono con noi per l'attrazione di turismo culturale, domanda di turismo culturale che è in aumento in tutto il mondo, competono con noi in questa gara, se vuole, di creazione di ricchezza, che è l'indotto che crea. E loro però investono mediamente, avendo molto meno, parlo dell'Europa, qualcosa come lo 0,90 fino all'1,20 del loro PIL nella manutenzione, gestione, tutela, conservazione e promozione del loro patrimonio culturale. Quindi io continuo con i dati che lei ha dato. Il mio ruolo qui è: noi abbiamo, nello Stato abbiamo una grande vocazione, che è la tutela e la conservazione del nostro patrimonio culturale, archeologico, che è la nostra storia, ma che è la storia della civiltà occidentale, che attraverso Roma si è diffusa in Europa e ha creato la cultura occidentale, di fatto, l'origine della cultura occidentale. L'identità del nostro paese è la cultura. Sa chi mi diceva questo e me lo ricordava? Io ebbi occasione di incontrare il presidente della Cina in occasione l'anno scorso del G8, venne il 5 di luglio in visita privata a Roma e visitò alcuni monumenti, tra quali il Colosseo, e mi disse una cosa, quindi fu una visita in cui l'accompagnai come tecnico dell'amministrazione, come dirigente dell'amministrazione. Lui mi disse: Senta, noi, l'identità dei nostri due paesi è la cultura, non mi ha detto l'economia, l'industria, la finanza, è la cultura. Su questo noi dobbiamo investire, perché siamo due civiltà che dopo millenni ancora sopravvivono ed esprimono cultura. Questo, se vuole, è illuminante. Quindi la nostra responsabilità oggi, io mi occupo di valorizzazione, ma la mia è una valorizzazione di tipo culturale, nella misura in cui voglio che il maggior numero di persone si avvicinino alla conoscenza della nostra storia dell'arte, della nostra arte, dei nostri autori, dall'archeologia fino ai tempi contemporanei. Quindi quando mi sono installato al Ministero ho messo in piedi una strategia che diceva, dopo anni di calo di visitatori ai nostri musei, sono dati un piano triennale, ho messo in piedi una squadra, ci abbiamo dato gli obiettivi, era quello di non perdere più visitatori, che erano meno 3, meno 5, meno 2 ogni anno, ma rilanciare, e devo dire che già i primi 6 mesi di quest'anno, per la prima volta dopo anni, il numero di visitatori dei musei dello Stato è più 12,2%. Quindi, se vuole, un turnaround che mi incoraggia molto su quello che stavo dicendo, che la domanda di cultura è fortissima, è latente, abbiamo bisogno che i giovani, le famiglie vengano ai musei, abbiamo fatto operazioni tipo allungare gli orari dei musei. Allora, l'altra cosa è fare conoscere le nostre opere d'arte. Ora, la Sardegna, che è ricordata, io sono andato in Sardegna giovedì scorso e mi avevano parlato di questi giganti di Monte Prama, ma di cui io, chiedendo ai miei colleghi in giro del Ministero, cosa ne sapete? Beh, solo uno mi ha detto che li conosceva. 1 su 10, Vittorio Sgarbi, che oggi è sovrintendente al Polo Museale, che era andato 4 anni fa, ma poca traccia c'era. Quindi sono opere interessantissime, misteriose, la cui conoscenza non è ancora completa, sono 23, sono conservate da 35 anni, se ne sta lavorando per il restauro nella Alipunti, come ricordato, che è vicino a Sassari. Io sono andato a vederli quella sera, e sono opere che possono diventare l'identità della Sardegna, che non può essere solo ricordata per le cose o negative o positive, che di tanto in tanto si accavallano, ma quelle sa solo le cose positive, negative viaggiano più quelle positive. Già questo dibattito, che è iniziato dal giovedì scorso, che io ho volutamente portato in modo provocatorio, dicendo queste sono opere che devono diventare una bandiera senza dubbio per la Sardegna, possono diventare, hanno tutte le caratteristiche, però vanno promosse, comunicate, fatte conoscere, e se riteniamo in Sardegna, io non entro nella disputa, perché i miei colleghi sovrintendenti e direttori regionali, se metti la Cagliari, a Cabras, a Sassari, peraltro sono da 35 anni lì in questo centro, istituto di restauro, e sono visitabili dal pubblico, tra l'altro tutti sono liberi di andare, è un'entrata libera, non si paga, il pubblico può entrare, ma non c'è segnaletica, nessuno lo sa. Tra l'altro sono altri 2 metri o 2,5 metri, c'è pochissima gente l'ha vista, ma anche quelli che ne parlano pochi l'hanno vista. Io sono andato, il mio mestiere è quello di vengo dalla cultura d'impresa, quindi vado a verificare le cose, parlo con le persone, parlo con i colleghi, parlo con i collaboratori, sto con loro, e sono andato perché loro mi hanno chiesto per cortesia venga a trovarci, parliamo di questo perché avremo voglia di capire come promuoverli. Questo dibattito da 4-5 giorni, ogni giorno sui giornali c'è questo dibattito. E allora in parole povere Resca diplomaticamente ci dice: tra i miei compiti c'è anche quello di lanciare idee apparentemente provocatorie che però, per il solo fatto di essere lanciate, far discutere, è vero, poi generano dei no all'utilizzo anche un po' provocatorio che io propongo, però in realtà in quanto tale generano un processo di autopromozione. Resta il fatto, e capisco che il direttore generale abbia delle giuste remore istituzionali a entrare nel merito dei tanti no che di volta in volta poi chi è demandato alla tutela, cioè i sovrintendenti, dicono per una concezione un po' sacrale dei beni culturali. Abbiamo letto in passato esplicitamente posizioni molte volte ripetute su Repubblica da Stefano Settis, una figura che è addirittura venerata nell'interno dell'amministrazione dei beni culturali, con cui ho spesso polemizzato. Stefano Settis, direttore della Normale di Pisa ed ex presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, spesso ha scritto che preferisce che i beni siano custoditi nei musei, nei loro depositi, se non ci sono gli spazi, come non ci sono gli spazi spesso per esporre i beni, piuttosto che essere dati in mano a privati per la gestione di eventi che servono a produrre profitto. Io la penso esattamente all'opposto e penso quindi che all'interno dell'amministrazione ci siano fortissime resistenze di carattere ideologico. E proprio qualche giorno fa, a proposito dei no opposti dall'amministrazione allo spostamento dei bronzi di Riace, che attualmente sono nel laboratorio ad hoc per l'accertamento delle loro condizioni, che è stato realizzato con denaro pubblico, circa 2 milioni di euro, vicino al Museo Archeologico di Reggio Calabria, che è chiuso, per restauro, resterà chiuso. E quindi lì sono i due bronzi. Proprio qualche giorno fa sul Corriere della Sera Andrea Carandino, il professor Carandino, ha scritto un articolo dal titolo "Troppe ipocrisie sui bronzi di Riace", di cui leggo solo una frase chiedendo poi a lui di commentare. Il professor Carandini con grande equilibrio ha scritto: l'importante è non perdere la testa né nel segno della conservazione né dell'innovazione, cercando una via moderata che salvi e saldi il buono che vi è nel vecchio come nel nuovo, attuare cioè nel campo dei beni culturali ancora fortemente ideologizzato, e il professor Carandini che lo dice, non il cattivo Giannino, non è facile, ma ciò il rischio è la contrapposizione frontale, l'opportunità invece il lavoro di squadra. Professor Carandini, questa via equilibrata a quindi rispettare come sacrosanto tutte le tutele che devono essere invigilate sul patrimonio dei beni, ma anche ad aprirsi a un maggior coinvolgimento dei privati, delle loro idee, delle loro tecniche di gestione e dei loro capitali, visto che quelli pubblici sono pochi e dimagriranno ulteriormente, credo che sia una delle maggiori difficoltà per chi si trova poi a svolgere responsabilità come le sue, ben all'interno dell'amministrazione dei beni. Quindi come si può articolare questa via moderata ed equilibrata che contempera le due esigenze? Dunque, guardi, quando intanto fu nominato Resca direttore generale per la valorizzazione, io sono stato, credo, l'unico in quella marea, in quella valanga di no a Resca, a difenderlo e a essere dalla sua parte, perché ero convinto che l'occhio di un outsider esperto in managerialità era proprio quello che ci voleva nel campo dei beni culturali. Ciò detto, all'amico Resca, io vorrei dire che le sue provocazioni sono simpatiche, però quando poi producono dei no, non fanno altro che rafforzare la politica dei parrucconi, cioè dei conservatori. Allora io credo che sarebbe sano non dividersi su coloro che vogliono far girare le cose e coloro che non vogliono farle girare, come Salvatore Settis. Penso che bisogna decidere delle cose volta per volta, seguendo dei criteri. Ora, il Ministero ha dei criteri, sono stati diramati nel 2008, quindi non molti anni fa, e questi criteri possono anche essere rivisti, però ci vogliono dei criteri, perché se no si cade nell'arbitrio, questo è quello che io penso, nell'arbitrio sia troppo favorevole sia troppo sfavorevole. Ricordo che in Italia si muovono circa 10.000-12.000 opere l'anno, quindi non è che nulla si muove, per certi versi si muovono perfino troppe cose. Naturalmente quando si toccano quei beni che Resca ha definito bandiera, lì naturalmente ci sono delle reazioni locali, perché sono degli elementi talmente intrisi di emozionalità che entrano in gioco spesso anche delle forme appunto di paura, di sottrazione, di perdita, eccetera, che sono naturalmente delle solenni sciocchezze. Il punto importante è questo: primo, gli oggetti per essere spostati devono essere spostabili, e questo deve essere l'Istituto Centrale del Restauro a dirlo. Se sono spostabili, qui ci sono due ottiche. Uno è dire: è un oggetto bandiera, facciamolo girare. Ecco, io sul concetto dell'oggetto bandiera ho delle perplessità, lo dico francamente, nel senso che le bandiere sono effettivamente degli oggetti di nessun interesse culturale, ma di altissimo valore simbolico, mentre le opere d'arte sono oggetti di grandissimo interesse culturale e anche di valore simbolico. Per cui, e su questo sono certo che Resca mi darà ragione, la valorizzazione deve essere in primo luogo culturale. Dopodiché, se se ne ricava anche un utile economico, tanto meglio, ma ci deve essere un progetto culturale. Ora, ogni volta che si parla dei bronzi di Riace, si parla per fargli fare delle passeggiate. Prima era il G8, poi adesso è. Invece, perché non fare un progetto culturale, no? Che di cui i bronzi di Riace fanno parte, e poi allora così c'è una motivazione anche culturale. Quindi quello che secondo me è necessario è questa motivazione. Cioè, noi vogliamo comunicare che cosa? Vogliamo comunicare dei feticci o vogliamo comunicare che cosa realmente sono questi oggetti? Che sono degli oggetti da capire. Per farli capire c'è bisogno di confronti, c'è bisogno di qualche altra opera che ci aiuti a capirli, c'è bisogno di tutto un piccolo apparato, diciamo, che li rende comunicabili e comprensibili. Credo che prima andrebbe lanciato il progetto culturale e poi all'interno del progetto culturale quegli oggetti che sono spostabili perché non hanno dei problemi, cosa che sui bronzi di Riace io ancora devo dire ho delle incertezze, perché non c'è stato, perché che mi risulti, un pronunciamento palesemente negativo dell'Istituto Centrale del Restauro. Quindi si parla di problemi, ma non si dà un giudizio definitivo. Quindi io capovolgerei un pochino, cioè smetterei di parlare di oggetti bandiera, farei dei progetti culturali e se gli oggetti possono essere spostati, viva Dio, li si spostino, però per un motivo. Anche io quando vado in viaggio non è che mi sposto perché sono un oggetto bandiera, io mi sposto perché ho un progetto, perché sono interessata ad andare, non so, a New York a vedere certe cose, oppure sono interessata ad andare in Asia per vedere altre cose, perché ho una motivazione. Credo che il concetto della motivazione è molto importante. Bene. E la motivazione, e concludo, aiuta anche a stemperare il concetto meramente mercantilistico. Certo. Che in Italia, paese cattolico, dove quindi il denaro non è amato in sé, cioè sterco del demonio, ovviamente, certo. È sterco del demonio, perché solo i protestanti non hanno questa sindrome. Ecco, allora io, come direi, non affronterei troppo di petto e provocatoriamente questi elementi, ma invece appunto farei dei progetti culturali. Ora, la questione è, quando si toccano questi le bandiere, come dice il professor Carandini, e pur tuttavia non si riesce neanche a ottenere una pronuncia negativa perché chi ha la responsabilità di dire sì, questo oggetto è spostabile e non rischia nulla, oppure non è spostabile e dicendo perché, perché oggi guardate che le tecniche per fare questo tipo di interventi di spostamenti sono straordinariamente sopraffini, quindi non è che si fa cadere il vaso, lo si rompe. Detto questo, siccome non si riesce a ottenere una pronuncia neanche chiara, il problema è proprio quello del localismo e del nazionalismo locale. E dopo le informazioni sulla circolazione stradale, io prego Andrea Marco Carminati, che ha scritto proprio, per esempio, l'ultimo dei suoi tanti articoli dedicato a questo, e parlava proprio dell'orgoglio calabrese, no? L'orgoglio calabrese sui bronzi. Ma la questione da porsi non è banalmente di numero, visto che a Reggio Calabria ci vanno in così pochi, lo abbiamo visto in questi anni quanti sono i visitatori del museo di Reggio. Perché quindi, se sono spostati i bronzi, una volta che qualcuno riesce a dircelo, però invece di ballare tra mezzi sì e mezzi no, il cui unico effetto è quello di avere un no totale, perché non pensare al progetto, come ci dice il professor Carandini, a un progetto solidamente incardinato a fare di queste due strepitose statue una bandiera culturale all'interno di un progetto culturale che le renda però un magnete, come non sono stati in tutti questi anni. Allora Carminati, l'orgoglio intorno alle bandiere che non si spostano significa poi un sistema meno capace di attirare insicurezza per quello che riguarda la tutela dei beni, fruitori e anche consumatori meno capaci di generare reddito aggiuntivo e quindi risorse private da aggiungere a quelle che lo Stato ha, che non sono troppe, come si vede anche a Reggio Calabria. Come si fa a declinare allora l'orgoglio locale con una visione un pochino meno primordiale dell'utilizzo dei beni? Intanto l'orgoglio locale io l'ho toccato con mano, perché sono stato di recente a visitare il cantiere aperto dove sono in cura i bronzi di Riace. Si tratta di un cantiere tanto particolarmente interessante, anzi colgo l'occasione di questa opportunità che mi offre per dire agli ascoltatori di andare a vedere questo cantiere, perché è un'occasione unica quella di vedere le statue stese in fase di restauro. Sarà impossibile in futuro poter dare un'occhiata in modo così particolare alle statue. Queste statue sono state appunto collocata all'interno del palazzo dell'Assemblea regionale calabrese, che ha offerto uno spazio. Si trovano in una specie di camera operatoria, una grande vetrata, ed è possibile avvicinarsi quasi di più di quando erano esposti eretti nella sala del Museo Archeologico, che è chiuso per essere riaperto dopo un'importante opera di riqualificazione e restauro. E chiaramente l'orgoglio è quello di vedere le persone che lavorano lì, che curano queste statue con una passione che sconfina quasi in una passione umana. Quindi è chiaro che c'è un attaccamento così un po' personale di chi sta lì a questi tesori, che sono praticamente unici per quanto riguarda il patrimonio dello stesso museo, che pure ha delle cose importanti ma non di così grande rilievo. Tra l'altro vorrei sottolineare un dato che mi è stato comunicato, che ho sperimentato io in prima persona, che da quando sono in restauro questi bronzi hanno avuto una attenzione mediatica più grande, per cui sono stati scritti degli articoli, gli stessi articoli che tu citavi sicuramente danno una mano. E c'è un dettaglio che mi aveva colpito, cioè io durante quella giornata, una giornata di mese non turistico, una giornata a metà della settimana, ho visto arrivare in continuazione dei gruppi. Da dove venivano a vedere queste? Ebbene, mi hanno comunicato che una linea di crociere ferma a Messina, nel porto di Messina, si prende un pullman, caricano i visitatori, gli fanno fare il traghetto, lo stretto con il traghetto, e li portano a vedere i beni. Quindi c'è in questo periodo, legato al fatto del restauro, una attenzione maggiore. Quindi questa idea, che è stata sottolineata anche dalle altre persone più in vario modo, in modo diverso, ma insomma si è sempre toccato questo tasto, cioè quella della promozione, secondo me è una cosa fondamentale. Io non capisco francamente, da cittadino italiano, il servizio pubblico televisivo, che appunto è una cosa che dovrebbe essere pubblica e già pagata sostanzialmente, non dedichi un minuto al giorno, in una fascia oraria dove c'è tanta gente, a un minuto e solo uno spot su il nostro patrimonio culturale, in modo da indurre i cittadini a creare quel pubblico, cioè quei clienti, detto così più brutalmente, ma insomma noi abbiamo bisogno che la gente vada al museo. Il dottor Resca faceva riferimento alle famiglie che devono, ecco, per quanto riguarda l'Italia sarebbe molto bello, anche perché sono cose molto affascinanti, cioè entrare nel mondo del restauro, di chi sta curando, di chi sta osservando da un certo punto di vista queste opere d'arte, è particolarmente affascinante, soprattutto se i funzionari, i restauratori sono in grado di raccontare queste cose con un linguaggio semplice. Poi resta da vedere come fare a promuovere. Io non sono contrario al fatto che queste opere vengano presentate in altre città, in altri luoghi del mondo. Ricordo tra l'altro che la fama dei bronzi di Riace la si deve proprio a quella incredibile tournée. Acquirina, sì, ecco, certamente, ecco, ma no. Ecco, fu una vicenda epocale. Dagli istituti di restauro di Firenze vennero esposti, arrivarono al Quirinale, cioè ci fu una popolarizzazione di queste immagini che probabilmente servirebbe anche ai colossi della Sardegna, che appunto, essendo una compagnia di 23 personaggi, forse se due si allontanano a fare da ambasciatori potrebbe essere utile. L'assessore però faceva riferimento a un tema che a me sta particolarmente caro, cioè la difficoltà di spostare. Beh, tu stesso l'hai detto, oggi diciamo è possibile anche al limite delle difficoltà spostare in sicurezza le opere d'arte, perché esiste una serie di professionalità, esiste una serie di professionalità che permettono di muovere oggi delle cose che noi naturalmente da comuni cittadini e da persone fuori dal settore magari immaginiamo che sia impossibile muovere. Io ho visto personalmente muovere dei colossi, delle statue, addirittura nei musei ci sono dei custodi, dei guardiani che riescono a muovere da soli delle statue. Ce n'è un gruppo abbastanza divertente nel Museo Archeologico di Napoli che è in grado con una fatica minima di muovere quelle statue che stanno all'interno del museo. Quindi questa non deve essere una preoccupazione, perché noi in Italia tra l'altro abbiamo delle aziende molto importanti che si occupano di questo settore in particolare e che tra l'altro si ritrovano ogni due volte all'anno, pensate, con i colleghi internazionali, si riuniscono due volte all'anno per parlare e confrontarsi sempre in l'argomento all'ordine del giorno è sempre la sicurezza, come è possibile alzare questo standard di sicurezza. Quindi è una preoccupazione costante. Quindi muovere le opere diciamo che non crea tecnicamente grossi problemi. Noi abbiamo veri problemi legati alle scolaresche che si avvicinano ai quadri nei musei con le biro, quello sì che è un vero pericolo per le opere d'arte, ma se c'è da fare 3.000 chilometri a una terracotta robiana in aereo, probabilmente con le sofisticazioni di questo periodo non si arriva a destinazione senza problemi. Anche perché non credo che a nessuno venga in mente di evocare, visto che prima l'assessore Troncia, l'assessore alla cultura del comune di Cabra, si evocava il rischio che poi non tornino le opere, come se fossimo ai tempi di Lord Elgin che smonta i fregi del Partenone e li riporta a Londra, dove poi sono ancora rimasti, o di Napoleone, no, di cui scrivi nel tuo ultimo libro, che in realtà depreda un bel po' del patrimonio, meglio del patrimonio dei paesi conquistati dalla Grande Armée, e poi bisogna andare al Louvre a vederlo, però non sono più quei tempi. Però perché questa è ancora la preoccupazione? Cioè, Marco, tu potresti dire che c'è un episodio nella storia recente italiana di qualcuno che di fronte a un bene che ha prestato o ha fatto girare per una campagna di promozione, eccetera, eccetera, non se lo sia visto poi tornare indietro? Ma guarda, io ricordo una quindicina d'anni fa di aver incontrato il direttore dell'Hermitage, che è Mikhail Piotrowski, che attualmente è ancora il direttore, quale aveva prestato una serie di opere impressioniste della bellissima collezione e le aveva portate e mandate in Francia, e in Francia erano saltati fuori dei proprietari, diciamo così, che si sentivano defraudati perché una parte di quelle collezioni era naturalmente frutto delle nazionalizzazioni legate al periodo post-rivoluzionario, no? Quindi lui bloccò i prestiti. Forse ci possono essere casi di questo genere. Nella fattispecie, però, credo che la preoccupazione sia legata al fatto che si ritiene che nelle aree diciamo periferiche tra virgolette ci siano meno opportunità di tutela, di sicurezza, di protezione, per cui si tende sempre a portare nei centri, nei capoluoghi, nelle realtà diciamo così più strutturate le opere d'arte. Però francamente oramai credo che l'idea della presenza diffusa sul territorio delle opere d'arte e del rispetto della specificità dei luoghi sia, credo, una cosa conquistata, e forse, e questo, in questo sono molto d'accordo col professor Carandini, forse proprio la discussione, il mettersi intorno al tavolo aiuta a stemperare, certo, anche questo. Perché se ci sono delle regole che sono state appunto ricordate anche dal professor Carandini su alcune linee generali, è molto importante non alzare gli steccati, perché è evidente che siamo in un'epoca in cui è necessario che la gente va e vuole le opere d'arte, quindi è diventato un bene diffuso che interessa molte persone, potrebbe interessarne di più se i mezzi di comunicazione come per esempio la televisione, che è di una efficacia micidiale per certi aspetti, si dedicassero per esempio a quello che minuto, hai detto, questa proposta, un minuto al momento, sì, di massimo ascolto, sì, del sì. Resto la televisione pubblica, la Rai agli esordi, negli intervalli proponeva i grandi monumenti e le facciate delle grandi chiese storiche italiane, gli intervalli quando ero ragazzino, perché non tornare a qualcosa come quello che ha proposto Marco? Bene, su questa idea di stemperare i no troviamo conclusione fattiva a questa trasmissione. Io quando vedo per esempio l'ENI che organizza grandi eventi intorno a grandi opere, come fa a dicembre ogni Piana della Scala, due anni a Milano, un Caravaggio, un Leonardo, e vedo però tanti che criticano delle sovrintendenze dicendo sono buoni tutti a prendere una grande opera, sì, però poi non sono buoni tutti a farci 200.000 persone in un mese, come fa l'ENI con i suoi soldi. Io sarei per incoraggiare il fatto le grandi aziende private italiane invece che ostacolare. ostacolarla, e secondo me sono troppo ostacolate organizzare cose di questo genere. Mi scuso con tutti gli archeologi, gli addetti del ministero e delle sovrintendenze che ci hanno dato moltissimi sms dicendo: voi parlate solo della valorizzazione delle opere, ma qui non ci sono i soldi. Credo che organizzando anche eventi di questo tipo si creino risorse aggiuntive anche per voi, non è che ci siamo dimenticati la vostra esistenza. Io ringrazio quindi il direttore Mario Resca, il professor Andrea Carandini, Marco Camminati e Sergio Troncia. Conclusione di 10 secondi. Ieri nel campo di Giorgio Fidenato, che abbiamo ospitato i giorni precedenti, che ha seminato numero 6 piantine OGM in linea con la direttiva europea che lo consente, una squadra di nazisti verdi, fascisti verdi, lo uso apposta questo termine, ha nuovamente fatto irruzione per distruggere le piante del suo campo. L'ex ministro Zaia ha battuto le mani, il ministro Galan, secondo me giustamente, ha parlato di un'azione condotta da violenti squadristi della peggior specie. In questo paese, se sulla proprietà privata arrivano oggi, in nome di interessi collettivi, a distruggerti le cose, e i ministri o presidenti regionali dicono che fanno bene, si sa dove si parte e non si sa dove si arriva. Solidarietà a Giorgio Fidenato e viva la libertà del rispetto, oltre che della proprietà, delle direttive europee, che in Italia vengono calpestate con la gente che violenta ti viene a fare quello che vuole. Questo paese, quando si comporta così, fa letteralmente, perdonatemi, rivoltare le scatole. Linea al giornale radio. Radio 24. La passione si sente.